Sono Gisella, m'han fatto drilliriare, si non querer de tamare, non ti sere, non ti sere, non ti sere, non ti sere, non ti sere, non ti sere, fatta bella rondinella, rondinella, rondinella, noi rondinella. Firma de fare mia vera sino se oh rondinella rondinella rondinella rondinella rondinella rondinella amore amore rondinella ti prego una vento firmare fare mia vera sino se sino se tu e chi è tan madera.